2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 3 ottobre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Siamo pronti per una nuova puntata. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet a partire dal lunedì pomeriggio, www.radio24.it, e naturalmente nelle pagine di 2024 trovate tutte le informazioni per riascoltarci. Vi consiglio sempre di utilizzare il servizio podcast e in questo caso entrate sul nostro sito internet nella sezione dove c'è scritto appunto podcast e lì trovate il link per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione in maniera facile e comoda settimana dopo settimana. Oggi parleremo anche della radio in occasione dei 10 anni di Radio 24 che compiamo domani, i nostri primi 10 anni, e compie gli anni anche 2024, una delle poche trasmissioni rimaste originali, sempre almeno con lo stesso formato e lo stesso nome dal 4 ottobre 1999. Quindi parleremo di questo e più tardi parleremo e cercheremo di capire come sta cambiando la radio, come si trasformerà il mezzo radiofonico nei prossimi anni. Alcune notizie della settimana. La prima arriva dagli Stati Uniti. Ci saranno nuove regole nel governo dell'ICANN, l'organizzazione non profit che ha sede negli Stati Uniti, che dal 1988 assegna a livello mondiale gli indirizzi internet e quindi decide quali domini possono esistere in rete, da quelli .com internazionali a quelli nazionali come il nostro .it. Gli Stati Uniti, questa è la notizia interessante, hanno accettato di concedere una maggiore partecipazione della comunità internazionale ai processi di assegnazione dei nomi a dominio e quindi il governo della rete, potremmo dire così, non è più nelle sole mani del Dipartimento del Commercio americano dal quale dipendeva l'ICANN. Questa organizzazione ha un ruolo molto importante perché c'è oramai una stretta relazione tra i marchi e i domini internet, quindi è un ruolo importante anche per il commercio internazionale. Pensate che grazie alle nuove regole decise lo scorso anno potranno essere create nuovi domini generici, ad esempio si potrà chiedere la registrazione, questo è un esempio che fanno in molti, la Apple potrebbe chiedere la registrazione del .mac e quindi fare apple.mac, oppure addirittura .apple, quindi fare iPod.apple, Mac.apple, potremmo anche fare una richiesta per fare il .pagliarini, quindi Enrico.pagliarini, eccetera eccetera. Tutto ciò naturalmente sarà molto difficile per le persone private perché costerà molti soldi e quindi sarà sicuramente una opportunità per il commercio internazionale, per le grandi aziende. Una notizia che riguarda Nokia, che ha annunciato in settimana di avere acquistato Doppler, un sito di social network dedicato ai viaggi e ai viaggiatori. L'obiettivo di Nokia è di rafforzare la sua posizione nell'offerta di servizi internet. Il sito è molto interessante ed è raggiungibile all'indirizzo www.doppler.com, scritto Doppler ma senza la E, quindi Doppler. Un'altra notizia di mercato che riguarda il settore della videocomunicazione, un'altra notizia molto importante: Cisco Systems sta per acquistare la norvegese Tandberg, che è uno dei maggiori produttori di sistemi di videoconferenza. Questa mossa si inserisce in un piano di crescita di Cisco in questo settore. Ricorderete che a 2024 abbiamo intervistato sia Cisco sia Tandberg, perché questo è un settore in forte crescita, soprattutto in un momento di crisi economica. Molte aziende tagliano i costi per i viaggi e investono sulla videocomunicazione, anche perché a conti fatti, dopo qualche viaggio tagliato, si riprendono i soldi investiti in videocomunicazione. Questo è un mercato che sta appunto crescendo molto molto rapidamente. Per quanto riguarda i prodotti, da segnalare che Logitech ha presentato un nuovo mouse senza fili che funziona anche su una superficie di vetro trasparente. Sony invece ha presentato la nuova PSP Go, quindi la nuova console da videogioco portatile. Al Parlamento europeo continua una discussione molto accesa e anche molto importante per tutta Europa. Si tratta del pacchetto Telecom, che non è riferito alla nostra Telecom Italia, ma è il progetto di riforma del settore a livello comunitario. Uno dei temi più dibattuti è quello relativo alla neutralità della rete. Finora Una delle più importanti caratteristiche della rete internet è proprio la sua neutralità rispetto ai dati in transito. Gli operatori, sapete, normalmente non fanno differenza tra un flusso video o una comunicazione telefonica, tra contenuti. La rete è appunto, come si dice, neutrale. Da qualche anno però le aziende di telecomunicazioni sono un po', potremmo dire, nervose nel vedere che grandi operatori internet aumentano i fatturati con servizi che occupano sempre più banda, ma non portano denaro nelle casse di chi gestisce le reti internet. Ecco perché le telecom, quindi le società di telecomunicazioni di tutta Europa, ma di tutto il mondo, vorrebbero avere un controllo, in alcuni casi filtrare certi servizi, e questa tendenza sarà, almeno così dicono gli esperti che, con cui parliamo a Bruxelles, sarà probabilmente quella di fare qualche concessione su questo fronte, a patto che gli operatori lo dichiarino ai clienti. L'ultimo caso di cui si discute molto in rete riguarda Vodafone, che ha annunciato di bloccare per alcuni profili e per alcune ore i servizi VoIP. Tutto ciò entrerà in vigore a partire da novembre, ma c'è appunto una accesa discussione. Sicuramente uno dei punti sui quali ci si farà concorrenza in futuro potrebbe essere proprio il blocco o meno di alcuni servizi sulla rete. Di neutralità della rete si parla molto in Europa, molto negli Stati Uniti. Alcune decisioni sono state prese in settimana anche negli Stati Uniti, e purtroppo molto poco in Italia. Rimaniamo a Bruxelles perché dopo 4 anni di sperimentazione è stato ufficialmente lanciato il sistema satellitare europeo EGNOS, che potremmo definire il precursore del futuro GPS europeo. Sapete che si chiamerà Galileo, dovrebbe diventare operativo tra 4 o 5 anni. EGNOS si basa sui segnali del GPS americano e del GLONASS russo, ma ne migliora la precisione con benefici soprattutto per i servizi di emergenza e per il mondo dei trasporti, in particolare per il settore aereo. La gestione del sistema è affidata ad una società di cui fa parte anche l'ENAV italiano. Nadio Di Rienzo è il direttore generale dell'ENAV. È un sistema satellitare, servirà per tutte le applicazioni collegate con il satellite, anche per esempio la navigazione che si fa con le macchine, ma può essere utilizzato in senso lato per tutta una serie, anche per esempio per le assicurazioni. La novità è che il sistema, l'infrastruttura già è stata realizzata, quindi già è funzionante, con i segnali che sono emessi e quindi sono ricevibili, un'infrastruttura molto complessa che utilizza il segnale del GPS, ma lo potenzia e lo rende più sicuro, più certo e più preciso. La società che gestirà il segnale è una società europea partecipata da più paesi, a cui l'Italia partecipa con ENAV. Può essere considerato il precursore del futuro gestore anche del segnale di Galileo per fini della navigazione aerea o per altri fini. I segnali che vengono utilizzati sono quelli del GPS, e quindi la maggior precisione è dovuta a che cosa? Un'elaborazione software? La maggior precisione è dovuta al fatto che ci sono 3 satelliti geostazionari che consentono di catturare il segnale GPS con maggiore continuità, lo rilanciano a terra e il segnale è costantemente, diciamo, monitorato nella sua integrità da 4 centri di controllo principali, di cui uno è installato a Roma negli impianti dell'ENAV, uno è installato a Francoforte, un altro è installato a Madrid e un altro è installato a Londra. Di questi 4 centri, 2 sono operativi e 2 sono di riserva, e la rotazione è fatta su base mensile, quindi 2 operano e sono funzionanti mentre 2 stanno in stand-by. Esistono anche 40 stazioni terrestri di posizionamento oltre ai 3 satelliti geostazionari di cui parlava il direttore dell'ENAV. Secondo quanto ha dichiarato la Commissione europea, potranno esserci benefici anche in termini di minore inquinamento, poiché le rotte aeree potranno essere più precise, anche in agricoltura potranno essere calcolati meglio i percorsi dei mezzi. Sapete che in alcune nazioni, poco in Italia, in alcune nazioni i mezzi agricoli vengono pilotati automaticamente seguendo i segnali del GPS, quindi il sistema a bordo di un trattore ad esempio ha una mappa del campo e l'aratura viene fatta in maniera automatica. C'è da segnalare che anche la maggioranza dei ricevitori satellitari, navigatori in vendita in Europa, può utilizzare questi segnali. Abbiamo altre notizie in breve. La prima riguarda Microsoft, che ha annunciato il proprio programma antivirus gratuito Microsoft Security Essentials. Naturalmente gli altri produttori di software di sicurezza non sono molto contenti. C'è un po' di dibattito online. Per Microsoft questo sarà un mese molto ricco di novità. La prossima settimana arriverà la nuova versione di Windows Mobile, la 6.5. Ne parleremo a 2024, così come parleremo di Windows 7 atteso per il 22 ottobre. Questa settimana è stato presentato SMAO, che aprirà a Milano dal 21 al 23 ottobre, una manifestazione che arriva in un momento difficile per il settore. Secondo gli ultimi dati Assinform, nel primo semestre 2009 la domanda di tecnologie informatiche nel nostro paese è diminuita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2008. Si tratta del calo peggiore dal 1991, che secondo l'associazione mette a rischio da qui a fine anno 20.000 posti di lavoro in tutto il settore. In settimana sono stati presentati altri dati, quelli dell'Osservatorio Italia Digitale 2.0, che confermano l'arretratezza del paese per diffusione e utilizzo di servizi internet e anche di collegamenti in banda larga. Una cosa di cui parliamo spesso 2024, si conferma quindi un problema di divario culturale e anche infrastrutturale. E proprio su questo punto mi piace citare il presidente di Telecom Italia, Gabriele Galateri di Genola, che ha la delega in Confindustria per la comunicazione e lo sviluppo della banda larga, perché Galateri dice una cosa che spesso ripetiamo, ripetono anche i nostri esperti, i nostri ospiti a 2024. Galateri dice che il governo deve essere più determinato negli investimenti in favore della banda larga. Il ministro Brunetta e il sottosegretario alle comunicazioni Romani sono consapevoli di questa situazione, ha detto Galateri, ma nelle decisioni del governo non trovo la stessa determinazione a investire. E adesso, come vi annunciavo all'inizio della nostra trasmissione, parliamo della radio, dell'evoluzione digitale della radio come mezzo di comunicazione. La radio è ancora oggi un mezzo ascoltato da milioni di persone, sono quasi 40 i milioni di persone che ogni giorno ascoltano la radio in Italia. Lo facciamo anche per festeggiare il nostro compleanno. Sapete che in questo fine settimana Radio 24 compie 10 anni, dal 4 ottobre 1999 al 4 ottobre 2009, e 10 anni li festeggia anche 2024, quindi dal 4 ottobre di 10 anni fa siamo ancora in onda. Manca un giorno allo spegnimento delle nostre candeline, ci saranno alcuni programmi speciali nella nostra programmazione in questo weekend e anche nella giornata di lunedì, il primo giorno dei nostri 10 anni. Dicevo che ogni giorno quasi 40 milioni di persone ascoltano la radio in Italia, questo è un mezzo di comunicazione tra i più ascoltati, tra i più seguiti al mondo, ma potremmo dire anche quello che resiste maggiormente nel suo formato tradizionale, anche se qualche cosa sta succedendo. Ancora oggi la stragrande maggioranza di chi ascolta la radio lo fa sintonizzando una stazione in FM come Radio 24, ma a fianco delle stazioni tradizionali stanno però crescendo migliaia di nuove radio su internet, o per meglio dire nuovi sistemi che permettono l'ascolto di contenuti audio via internet. Allora andiamo per ordine e vediamo che cosa succede o potrebbe succedere alla radio tradizionale. Entro poche settimane l'autorità per le comunicazioni dovrebbe pubblicare il regolamento che, dopo quasi 20 anni di sperimentazione, aprirà le porte del DAB, Digital Audio Broadcasting, anche nel nostro paese. Quante volte alcuni avranno sentito dire è l'anno del DAB, della radio digitale? Beh, forse il 2010 sarà effettivamente l'anno in cui vedremo le prime trasmissioni a livello commerciale, perché c'è da dire che tutte le radio nazionali e anche alcune radio locali stanno già da tempo trasmettendo in tecnica digitale DAB, ma nelle prossime settimane dovrebbero essere messe a punto proprio le regole che possono far partire un mercato sulle quali gli editori possono basarsi. Quali vantaggi promette il DAB? Beh, una migliore qualità del suono, un aumento potenziale del numero di canali, ma naturalmente tutto ciò è anche una funzione del numero di frequenze che verranno messe a disposizione. Su questo non c'è ancora una chiarezza totale. ...2024 stiamo parlando della radio e dell'evoluzione della radio a 2024. Ho detto che il 2010, almeno le notizie che abbiamo, ci dicono che il 2010 potrebbe essere l'anno dell'avvio ufficiale delle trasmissioni a livello commerciale in tecnologia DAB, quindi la famosa radio digitale che si sta sperimentando da ormai 20 anni. Siamo in attesa di alcune notizie dall'Authority per le comunicazioni. Gradualmente queste trasmissioni, che già esistono ma sono in via sperimentale, si affiancheranno all'FM. È importante questo aspetto, perché non è che dal prossimo anno, comunque tra qualche anno, verranno spente le frequenze in FM. Queste continueranno ad esistere, quindi non è previsto lo switch off, così come accade per la TV digitale terrestre. Quindi lo Stato sta determinando un cambiamento epocale per la TV, questo non accadrà per la radio. Rimangono, almeno gli esperti hanno alcuni dubbi sulla reale possibilità che il DAB si affermi. Il primo problema è la disponibilità di sintonizzatori a prezzi popolari, che sarà una delle sfide che il mercato dovrà affrontare, assieme all'offerta di nuovi canali che dovrebbero invogliare gli ascoltatori ad affiancare all'FM l'ascolto del DAB. Come dicevamo, poiché non esiste lo spegnimento, non è previsto lo spegnimento per le frequenze analogiche, quindi l'FM, alcuni sostengono che in pochi saranno gli ascoltatori che abbandoneranno l'FM per passare al DAB, in mancanza di una programmazione, quindi di nuovi canali che invogliano appunto gli ascoltatori, così come è successo in Gran Bretagna, l'unico vero grande caso di successo mondiale per il DAB. Vedremo che cosa riusciremo a fare in Italia. Anche negli Stati Uniti, dove sono pensate attive circa 13.000 radio analogiche in FM e in AM, il passaggio alla tecnologia digitale è molto lento. Anche là c'è una specie di DAB, si chiama HD Radio. Finora solo 2-3.000 emittenti hanno attivato una stazione digitale. Nel capitolo nuovi sistemi per diffondere la radio via etere, per via terrestre, quindi con antenne che distribuiscono il segnale per via terrestre, va citata anche la tecnologia Digital Radio Mondiale, che è destinata alla digitalizzazione delle trasmissioni in onde media, ma di questo si parla ben poco, insomma siamo ad un impasse. Un altro capitolo è quello delle radio via satellite. Esistono sostanzialmente tre esempi, tutti americani. Il primo è WorldSpace, destinata ai paesi in via di sviluppo, ma non gode di grande salute. E poi ci sono due radio commerciali, Sirius e XM, che offrono a pagamento circa 300 canali di ogni tipo, con una copertura nazionale diretta e senza parabola. Negli Stati Uniti vengono vendute radio e autoradio compatibili con Sirius e XM da qualche mese ad entrambe le radio, perché a conferma che questa novità non si sta affermando facilmente, le due società si sono fuse in Sirius, e pensate che dopo quasi 20 anni di attività lottano per la sopravvivenza, nonostante i 18 milioni di abbonati che pagano ogni mese appunto un canone. Da tenere d'occhio c'è una società che si chiama Solaris Mobile, fondata da due colossi del settore satellitare in Europa, Eutelsat e Astra. Solaris Mobile promette di portare contenuti audio e video direttamente su apparecchi mobili come i telefonini o i sistemi per automobili. Un altro capitolo, e concludiamo questa introduzione, poi vi presenterò il nostro ospite, un altro capitolo è quello che si è aperto con internet. Forse questo è il capitolo più interessante, più vasto, dove sono oramai migliaia o forse milioni le web radio o tutte le altre forme di ascolto che nascono ogni mese, perché un conto è la web radio, un conto sono tutte le altre forme che mettono insieme nei modi più diversi e disparati i contenuti audio che si trovano su internet. Ci sono nomi noti, alcuni possono essere utilizzati dall'Italia, dall'Europa, alcuni sono solo riservati al mercato americano, come Pandora, Spotify, Last.fm, Shoutcast, Live365, uno degli ultimi nati è Mixcloud. Ogni mese, dicevo, nascono nuovi servizi. Si tratta di servizi che permettono di ascoltare spesso un canale audio di musica via internet, che viene proposta in base ai nostri gusti, con sistemi anche molto sofisticati, fino alla creazione di veri e propri canali personalizzati. Ma per parlare di questo, anche della qualità audio, che è un aspetto importante, saluto il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina, direttore di dday.it. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo agli ascoltatori che da qualche settimana è online il vostro nuovo prodotto. Con la tua redazione avete realizzato D-Day.it, che è un punto di riferimento per la tecnologia. Forse non esisteva una cosa così fino a qualche tempo fa in Italia. Troviamo notizie relative ai prodotti, ma non solo. Notizie, test e soprattutto, sempre più nelle prossime settimane, commenti anche di tutti gli utenti, dei visitatori, che diventano anche coautori del sito e quindi commentano i prodotti e danno anche i loro consigli, se li hanno, le loro indicazioni. E quindi un sistema di informazione fatto ovviamente da dei giornalisti specializzati, ma anche dagli utenti stessi. L'ottica dell'utente è sempre importante. Ho una richiesta per la redazione, quella di fare alcuni test su i ricevitori per la radio FM. Parlando sull'oggi, esiste un'offerta variegata, strutturata di ricevitori FM? Quando io, e condivido questa cosa con alcuni ascoltatori che hanno scritto recentemente, voglio acquistare un nuovo ricevitore per la radio tradizionale in FM da mettere in casa, ho sempre un po' di difficoltà. Come stanno le cose sul mercato? Ma le cose sul mercato è che fino a qualche anno fa, diciamo un paio di decenni fa, la radio aveva, ti parlo come apparecchio ovviamente, aveva una dignità come apparecchio a sé stante, di per se stesso. Ancora, se vogliamo, un retaggio dei vecchi radio mobile, che occupavano ovviamente molto spazio ed erano l'apparecchio cui si, attorno al quale si riuniva tutta la famiglia prima dell'avvento della TV. In realtà c'erano anche i componenti hi-fi, quelli larghi 43 cm molto classici, che erano i famosi sintonizzatori, venivano chiamati, quindi servivano per sintonizzare i canali, semplicemente i canali radio. Negli anni successivi la radio è diventata una commodity, quindi come dire, bastava che funzionasse, anzi la funzione radio è stata integrata in moltissimi apparecchi. Sono arrivati i radioloni, i radioregistratori, i radio CD, quindi i sistemini compatti che avevano la funzione radio, diventata poi da sintonia analogica, sintonia digitale, ma cioè praticamente il ricevitore radio si è infilato in altri prodotti ed è passato in secondo piano. In altri prodotti è un po' passato in secondo piano. Quello che un po' succede oggi, è molto più facile trovare per esempio un sinto amplificatore, rimanendo nei componenti hi-fi, quindi un amplificatore che, già che c'è, integra le funzioni di radio al proprio interno, oppure trovare per esempio la funzione di sintonizzatore radio all'interno di un player MP3 portatile, per esempio, piuttosto che avere un apparecchio radio portatile. Non è più neanche così facile trovarli. La qualità di riproduzione delle radio, sia che siano portatili, da tavolo, domestiche, è andata per certi versi scemando, perché diventando un prodotto sempre più povero, diciamo così, nella percezione, e comunque molto economico, essendo quando la lotta diventa eccessivamente economica, prima o poi la qualità viene a pagare. I prodotti hanno reso come una qualità audio proprio di riproduzione molto bassa, spesso così bassa da rendere l'ascolto non così piacevole anche per una, per esempio, talk radio come Radio 24, dove magari la musica non è così presente come in altre emittenti, ma anche il parlato ha bisogno di una qualità buona per non essere fastidioso, per non diventare stancante. Certo. Cosa che invece succede con, diciamo, con la maggior parte degli apparecchi molto economici. Perché nonostante l'FM, adesso stiamo parlando solo di FM, poi parleremo anche della ricezione attraverso altre modalità che già vediamo, o alcune che vedremo, meglio, che già ascoltiamo e altre che ascolteremo nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Dicevo, anche se la qualità intrinseca del segnale FM non è paragonabile al compact disc o altri sistemi, tuttavia con un buon sintonizzatore si può godere di un buono spettacolo audio. Sì, sono due componenti fondamentali. Una è l'elettronica, che fa la sintonia vera e propria, che deve essere buona per evitare disturbi. Soprattutto poi in Italia, dove la situazione dell'FM è un po' drammatica. È un po' complicata, certo. E poi la parte proprio di amplificazione e diffusione. Quindi il piccolo amplificatore che c'è dentro ogni radio e il diffusore, che normalmente è un altoparlante solo, un monovia, quindi che però, se ha una certa qualità, mi restituisce tutte le frequenze dalle basse alle alte con una fedeltà quantomeno accettabile, e l'ascolto, ci se ne accorge se l'ascolto diventa stancante, vuol dire che la qualità non è buona. Se si tende sempre a ritoccare il volume verso il basso, quindi abbassarlo sempre più, soprattutto negli ascolti prolungati, significa che il nostro sistema percettivo sta rifiutando quel tipo di segnale, che lo trova innaturale. Se invece il volume può rimanere per lungo tempo, magari quando la radio ci accompagna sul lavoro, piuttosto che in altre situazioni dove possiamo ascoltarla per lungo tempo, e l'ascolto non è stancante, quando spegniamo la radio non facciamo... finalmente. No, ma siamo contenti anzi di lasciarla accesa, vuol dire che la qualità di riproduzione è buona. Il famoso affaticamento da ascolto, sono stati scritti libri, ci sono convegni su questo tema tra gli esperti. Vi ricordo che 2024 è in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online su www.radio24.it. Vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, come vi ripetiamo tutte le settimane. Maggiori informazioni sul nostro sito internet oppure scrivendoci al nostro indirizzo 2024, scritto in cifre, quindi 2024 e radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione, per il vostro ascolto. Vi ricordo che in questo fine settimana Radio 24 compie 10 anni, abbiamo previsto anche una programmazione speciale, quindi seguiteci nei prossimi giorni, e compie 10 anni anche 2024. Quindi siamo felici di questo risultato assieme a molti altri programmi di Radio 24. Dunque, stiamo parlando della radio oggi perché sicuramente nei prossimi anni ci saranno molte cose che si trasformeranno, rimarranno le trasmissioni sulle frequenze delle radio nazionali e delle radio locali in FM, ma cresceranno altri modi per ascoltare la radio. Sicuramente uno degli sviluppi maggiori sarà quello di internet. Tanti piccoli editori che già stanno crescendo, o alcuni grandi editori che offrono, soprattutto americani, che offrono servizi anche particolari, anche strani, che mettono insieme prevalentemente musica, ma in alcuni casi anche contenuti audio di diverso tipo. A proposito della digitalizzazione, che si stia parlando di frequenze terrestri, di frequenze satellitari, perché la radio va anche via satellite, come dicevamo poco fa, e di trasmissioni via internet, vorrei chiedere a Gianfranco Giardina, che è con noi nel nostro studio, direttore di dday.it. Gianfranco, quando parliamo di digitale non necessariamente parliamo di una migliore qualità, diciamo potenzialmente stiamo parlando di una migliore qualità, ma questo non è detto, non è automaticamente detto quando si parla di digitale. Non è assolutamente meglio né come qualità audio né come qualità in generale di qualsiasi altro contenuto digitale ne stiamo parlando. Anche per la televisione vale lo stesso concetto, la TV digitale non è di per sé stessa migliore della TV analogica, risolve alcuni problemi di ricezione, però poi interviene il concetto di compressione. Il segnale televisivo, come quello radiofonico digitale, è comunque un segnale compresso, e questa compressione non è un termine fissato, è variabile, ed è variabile nel tempo, ed è variabile a seconda dell'emittente, di come il segnale viene mandato in onda. Se il segnale è molto compresso, si risparmia chiaramente banda di trasmissione, si risparmia a seconda della tecnica digitale di trasmissione, ma comunque si risparmia spazio, quindi si risparmia etere se etere o rete se via internet, ma comunque si risparmia, però si perde in qualità. Quanto, dove mettere la barra è la decisione dell'emittente, cioè quanto voglio perdere in qualità per guadagnare banda, oppure quanto sono disposto a spendere in banda per avere una qualità di un certo livello. C'è chi tira questa barra troppo verso il risparmio di banda e raggiunge qualità spesso non accettabili. Questo lo vediamo sul TV, ma lo vediamo anche per esempio sulla distribuzione digitale di alcuni segnali radiofonici. Quindi dire che sento delle volte degli slogan, godetevi l'emittente tal dei tali nella magnificenza della qualità digitale, ecco, non significa assolutamente nulla, perché molte volte la qualità digitale è pessima, questo va assolutamente detto. Certo che la qualità digitale, permettendo, eliminando a monte alcuni problemi di ricezione, potenzialmente può permettere delle qualità molto alte. Tutto sta chiaramente a voler investire in qualità e non tutte le emittenti hanno magari voglia di farlo. Uno dei fenomeni ai quali stiamo assistendo negli ultimi tempi, già da qualche anno, ma soprattutto negli ultimi mesi, è la digitalizzazione, cioè il passaggio dal mondo analogico, quello che conosciamo oggi della radiofonia in tutto il mondo, verso internet. Quindi la radio sta sempre più diventando un mezzo un po' diverso da quello che conosciamo oggi in tutto il mondo e sta andando verso internet. Questo fenomeno, quello delle web radio, comunque dei flussi audio che noi possiamo catturare sulla rete internet, sta in qualche modo anche riproponendo il sintonizzatore come pezzo ad arredamento che io mi metto in casa. Sbaglio o ogni mese esce qualche sintonizzatore per il web? Poi spieghiamo anche che cosa sono questi strumenti, questi prodotti. Sì, è vero, assolutamente sì. La radio, contrariamente a quello che è successo per TV, almeno in Italia, in qualche modo sta saltando il passaggio completo alle trasmissioni via etere con tecnica digitale. Il digitale terrestre televisivo è oramai una realtà e diventerà una realtà unica nella trasmissione via etere terrestre fra poco. Anche perché è imposto dallo Stato. Stato. Non sembra che arrivi la medesima imposizione, e sarebbe anche altresì molto complicato gestirla. Per quello che riguarda le trasmissioni radiofoniche, sono troppi gli apparecchi analogici in FM in grado di ricevere, e pensare di sostituirli tutti sarebbe veramente faticoso, anche perché, come abbiamo detto, la funzione FM è spesso integrata in altri apparecchi, sì, quindi sì, magari sì, cambia sì, la radio, bisogna cambiare tutto il sistema, il telefonino, eccetera. Quindi probabilmente, almeno questo è il mio parere personale, la radio digitale via etere non prenderà mai un piede, come dire, totalitario Italia, nel nostro paese, mentre le emittenti via internet, cioè la trasmissione digitale radiofonica, passerà direttamente allo streaming, quindi alla diffusione, o al netcasting, chiamiamolo come vogliamo, diffusione via internet. Cosa vuol dire? Alcuni server da qualche parte su internet distribuiscono un segnale audio, di fatto, e degli apparecchi, un computer va bene, va da sé, è evidente, ma anche degli apparecchi stand alone senza bisogno di un computer possono agganciarsi a questi flussi e permettere l'ascolto. Esistono molti apparecchi apparentemente radiofonici, cioè sembrano delle radio normalissime, in realtà alcune permettono anche di sintonizzare i canali FM, ma la stragrande maggioranza invece sintonizzano soltanto canali sulla rete, permettono di navigare delle liste di canali divise per genere, per nazione, per tipologia, oppure direttamente navigabili per il nome dell'emittente, e permettono appunto di agganciare questi flussi e di ascoltarli. C'è un piccolo disagio, quello che la radio deve fare un po' di buffering prima di trasmettere il segnale, quindi quando io cambio stazione su FM il cambio è praticamente istantaneo. Sì. Quando cambio stazione su una radio internet il cambio può impiegare 3, 4, 5, anche 10 secondi fino a che viene agganciato lo stream, viene fatto il buffering, quindi i tempi tecnici di rete. Dopodiché la riproduzione parte. Che cosa stiamo ascoltando? Questa è la domanda, perché quando ascoltiamo un'emittente radiofonica su internet non si capisce bene, no, se è un canale radio come siamo abituati a pensarlo fino ad oggi, con delle dirette, oppure se è semplicemente una lista di canzoni magari che stiamo ascoltando, che potrebbe essere anche diversa. Esiste un po' tutto, esistono proprio i segnali che vengono già diffusi via etere, come quello sul quale stiamo parlando, che sono diffusi in simulcast, quindi contemporaneamente nello stesso momento sono diffusi anche via internet, quindi io posso sentire Radio 24 in diretta però tramite la rete, questa è una cosa che già si fa oggi. Sì. Oppure posso sentire delle radio che sono che non esistono come messe in onda via etere, e che non esistono neanche come emittenti radiofoniche, come dire, pensate in maniera tradizionale, sono radio personali, quindi io potrei semplicemente dire a un emittente, posso già oggi, a un emittente virtuale, chiamiamola così, tanto per farci capire quali sono i miei gusti, oppure comunicare che a me piace questo gruppo, o questo e questo cantante, chiaramente un sistema esperto automatico dell'emittente mi compila un palinsesto che probabilmente è adeguato alle mie esigenze, ovviamente inserendo qua e là degli inserti pubblicitari, o di altro eccetera, tipo eccetera. Certo, quindi spesso cosa che in maniera minoritaria accade anche oggi nelle radio FM, dicevo, spesso queste radio sono di fatto un computer che fa suonare una serie di canzoni o una serie di contenuti audio di diverso tipo, tant'è che io nei giorni scorsi ho provato a telefonare o a mandare email a web radio abbastanza note su internet, soprattutto americane. Beh, al telefono non mi rispondeva nessuno, dicevo non siamo in studio, quindi probabilmente magari per settimane non c'è nessuno che... Infatti, o comunque questo... raramente qualcuno va a fare la programmazione, quindi cambia, e volevo anche un tuo parere sui prossimi anni. Cambia sicuramente il concetto di radio. Molti esperti di radio, molti editori si stanno anche facendo delle domande per capire come cambieranno le cose. Probabilmente la radio sarà forse l'ultima a vedere questa esplosione di diversi formati. Ecco, qual è il tuo parere? Che fra parecchi anni ognuno avrà il proprio palinsesto fatto, magari addirittura su un autoradio in automobile che si collega alla rete internet? Assolutamente sì, io credo che si dividerà in due il panorama radiofonico. Da una parte la fruizione più musicale, per tutti coloro che alla fine sono un po' pigri, magari non vogliono scegliere la propria musica, vogliono che ci sia un DJ a scegliere la musica per lui, quindi l'ascolto radiofonico più classico, più tradizionale, di svago. Ecco, in questo caso che il palinsesto venga fatto magari sulla base delle nostre esigenze specifiche è un valore aggiunto. Dopodiché io aspetto la canzone successiva con trepidazione per capire chissà che cosa mi mette su il DJ o il computer, che sia, non importa. Magari viaggiando in macchina è un ascolto, come dire, non impegnato. In questo caso il fatto che quell'emittente l'ascolti soltanto io o l'ascoltino 2 milioni di persone poco importa. Cosa diversa invece è tutto quello che riguarda l'attualità e quindi tutto quello che deve essere diffuso in diretta, perché chiaramente questo tipo di fruizione non ha niente a che vedere con la messa in onda in diretta, che resta comunque un valore per seguire gli eventi, per avere comunque le ultime notizie, ma che non fa, diciamo, fa un po' a cazzotti con questa visione della radio semplicemente come fruizione audio. Sì. Perché se la radio diventa una pura fruizione audio fatta semplicemente online invece che da supporti come può essere il disco, certo che sotto il capitolo radio possiamo mettere un sacco di fruizioni digitali che vengono e che verranno, che sono già disponibili oggi, che forse con la radio, come siamo abituati a pensarla tradizionalmente, hanno poco a che fare. Certo, quindi diciamo che i nostri GR24 continueranno a essere prodotti fatti dal vivo ora dopo ora. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Gianfranco, buon lavoro e naturalmente in bocca al lupo per dday.it. A presto. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori. Per concludere la nostra chiacchierata e il nostro approfondimento dedicato alla radio, all'evoluzione digitale della radio, beh, da citare ci sono alcuni prodotti, almeno una categoria di prodotti, come dicevamo poco fa, le internet radio, cioè apparecchi che permettono di ricevere le web radio. Beh, da segnalare in questo mercato anche l'entrata di Nokia con la Nokia Home Music. Poi ci sono le squeeze box della Logitech e anche alcuni modelli di Philips, per citare quelli che si trovano sul mercato italiano. Poi, se avete la pazienza di andare a cercare qualche prodotto all'estero, ci sono apparecchi e prodotti veramente molto interessanti. Se siete appassionati, alcuni ascoltatori ci hanno scritto proprio dicendosi appassionati della radio, e se avete la possibilità di avere la DSL a casa, magari con un hotspot wifi, beh, ci sono prodotti molto interessanti e molto belli da utilizzare per ascoltare anche altre radio in giro per il mondo. Magari tenete Radio 24 come prima scelta, poi ogni tanto qualche assaggio di qualche internet radio in giro per il mondo. Uno tra i settori della rete che riceve più finanziamenti per lo sviluppo di nuove tecnologie, dove già oggi si fanno un sacco di soldi, è quello, molto spesso lo diciamo, della ricerca, intesa come motori di ricerca. E questo è un settore sicuramente interessante di cui parleremo anche in futuro, ne vogliamo parlare in questa ultima parte di 2024. La sfida dei prossimi anni sarà quella di far comprendere al motore di ricerca cosa c'è in rete oltre al testo. Sapete che oggi i motori cercano prevalentemente testo. Ad esempio far sì che le macchine siano in grado di ricercare una particolare fotografia o un particolare video. Ancora oggi ci sono molti problemi da risolvere, ma potremmo dire ci si può arrivare con soluzioni alternative. Di questo vogliamo parlare con Enrico Giannotti, che è condirettore generale di CEDAT. Benvenuto 2024. Buongiorno, grazie. E con noi anche Rosa Grazia Bombini, che è amministratore delegato di Exalead. Benvenuta anche a lei. Grazie, buongiorno. Vorrei partire dal settore della ricerca, da Exalead. Voi fate un motore di ricerca sostanzialmente, un motore di ricerca particolare, non è un motore di ricerca simile o uguale a quelli che siamo abituati a vedere sul web, o forse le tecnologie sono simili e sono uguali, ma voi fate altro. Sì, corretto. Diciamo che noi facciamo un motore di ricerca che è in grado di ricercare qualsiasi tipo di informazione, sia questa un'informazione strutturata, sia questa informazione non strutturata, laddove quando parlo di non strutturato intendo sia quelle che possono essere informazioni cartacee, sia quello che possono essere immagini piuttosto che video, piuttosto che qualsiasi supporto su cui io posso avere immagazzinato delle informazioni che mi servono. Diciamo che la caratteristica peculiare della nostra tecnologia è quello di fare il search all'interno delle varie fonti, ma di permettermi già nel momento in cui io indicizzo, nel cui io immagazzino queste informazioni per la ricerca, di creare una categorizzazione secondo quelli che possono essere i parametri che a me servono. Quindi sono in grado, per esempio, di identificare su base statistica tutti quelli che sono i termini correlati che ci sono all'interno dei documenti. Esempio, cerco la parola Milano, troverò tutti i documenti, diciamo che il sistema è in grado di individuarmi le parole maggiormente ricorrenti in questi documenti, quindi albergo a Milano, Duomo a Milano, Castello Sforzesco, in modo tale da potermi agevolare questo tipo di ricerca. Cosa che normalmente un motore di ricerca classico come lo conosciamo oggi non fa, cioè mi presenta una lista di risultati. Esatto, diciamo che oggi se io devo fare come utente finale una ricerca sul mondo web, utilizzo uno strumento che mi pagina tutte le informazioni, quindi avrò tantissime pagine e se voglio trovare tutti quei documenti devo fare pagina successiva e così via. Col nostro strumento posso raffinare la ricerca seguendo questo tipo di categorizzazione. Però questo è uno strumento dedicato e pensato per un mondo, pensando al web come un mondo infinito, il vostro è pensato per un mondo finito, comunque un po' più contenuto rispetto al web. Diciamo che non porrei tanto il limite sul fatto che il mondo sia finito o infinito. Diciamo che l'obiettivo della nostra azienda non è quella di fare un motore di ricerca che viene utilizzato dal mondo web e il cui modello di business prevede ritorni di revenue da quello che è l'advertising, la pubblicità. Il nostro modello di business prevede di avere un software che viene venduto a delle aziende e le aziende lo possono utilizzare per quelle che sono i loro scopi. Quindi il volume può anche essere enorme, dipende dallo scopo dell'azienda. Questo è importante per capire che il mondo della ricerca è un mondo molto interessante, sul quale ci sono molti investimenti, che non è limitato solo al web, come molti dei nostri ascoltatori, come tutti noi proviamo tutti i giorni e vediamo, sperimentiamo tutti i giorni. Mi conferma che in questo particolare settore ci sono moltissimi investimenti? Direi assolutamente di sì. Se io penso al mondo oggi delle aziende o comunque al mondo in genere, sappiamo che il volume di informazioni che vengono che esistono nel mondo è destinato a crescere in modo esponenziale, per cui è chiaro che poter avere degli strumenti che siano in grado per gli utenti di raffinare la ricerca, di ricercare le informazioni che gli servono, è un grosso valore aggiunto, altrimenti ho tantissime informazioni ma non sono in grado di trovarle. Quindi è quasi come non averla. Esatto. Quindi questa sarà una delle sfide, uno dei problemi del futuro, cioè riuscire a capire che cosa c'è o nel mio database, nella mia azienda. Che cosa c'è e cosa mi interessa. Certo, certo. Enrico Giannotti, dicevo, voi studiate, sviluppate una tecnologia che si combina molto bene col mondo della ricerca. Stiamo mettendo assieme alcuni pezzi per poi capire come il sistema, questo nuovo trend del mondo della ricerca, si trasformerà già oggi, ma comunque sempre più nei prossimi anni. Voi fate un sistema che riconosce la voce tipicamente di una persona che parla, che sia essa registrata in un file audio normale oppure in un video, comunque una voce, e siete in grado di trasformarla in testo. Esatto. Innanzitutto come fate e di che tipo di tecnologia stiamo parlando? Esatto, utilizziamo dei sistemi di riconoscimento automatico della voce. Il riconoscimento automatico della voce è una tecnologia oramai consolidata, ma che nel tempo ha avuto notevoli sviluppi, e si è passato da una tecnologia di riconoscimento basata sul riconoscimento del profilo della persona che va ad estrarre una propria macchina, ad una tecnologia che oggi, grazie alle nuove potenze di calcolo che sono disponibili, è in grado invece di riconoscere la voce indipendentemente dall'addestramento che la macchina può aver subito. Quindi può riconoscere la mia voce, la sua voce, la voce di chiunque. Questo consente di fare un'analisi completa dello spettro vocale e tirar fuori quella che è la trascrizione puntuale di quanto detto, con un valore aggiunto, mantenendo l'informazione anche temporale relativa alla singola parola collegata al video. Quindi oggi ci sono tecnologie che, senza grandi problemi, ma volevo capire anche quali sono poi i problemi, qual è la capacità poi del riconoscimento, riescono a tradurre in testo quello che ad esempio stiamo dicendo adesso. Esatto. Con margini di errori? Ma gli errori sono ovviamente legati a quello che è il campo di applicazione, sono fortemente legati a come viene acquisito l'audio, quindi ovviamente un audio microfonico avrà delle percentuali di successo molto elevate, prossime al 97-98%, e ovviamente dipende anche dal contesto, per cui se c'è una sovrapposizione di voci, quindi una situazione caotica, ovviamente il sistema ne risente alla stessa maniera di un orecchio umano che ha difficoltà a distinguere le diverse voci e quindi a seguire il discorso. Quindi se noi dessimo in pasto il file audio di questa nostra chiacchierata a una delle vostre macchine, al vostro software, diciamo che la percentuale è vicina al 100%. Esatto, avremo il piacere sicuramente di farlo. Mm. Tutto ciò che cosa c'entra col mondo della ricerca e che cosa c'entra anche con il mondo del video, visto che io certo, all'inizio ho detto il mondo si sta trasformando, dico ahimè, visto che noi facciamo la radio, in un mondo sempre più visuale. Ci sono alcuni americani che ripetono sempre la parola visual. Visual, esatto. Il motore di riconoscimento automatico, generando questo testo, apre una serie di possibili applicazioni. Una di queste è appunto quella di agevolare la ricerca, ad esempio consentendo di fare una ricerca anche su quello che è il contenuto di una registrazione audio-video. Basandosi su quello che dicevo prima, su quella puntualizzazione, il testo prodotto dal sistema di riconoscimento non è un testo a sé stante, è un testo che contiene l'informazione temporale e rimane legato al video. Per cui, grazie alle potenzialità di un motore di ricerca come quello di Exalead, effettuata la ricerca per parola o per categoria, si va a ottenere come risultato non il testo, ma il punto esatto del video in cui quella determinata parola, nome di persona, parola a caso, è stata pronunciata. Rosa Grazia Bombini, mi sembra di capire quindi che le tecnologie che vengono utilizzate dai motori di ricerca ancora non sono in grado di capire che cosa c'è in un video. E allora questa è una tecnologia che ci viene in aiuto, cioè trasformiamo quello che c'è nel video in un testo e il motore di ricerca di fatto fa sempre una ricerca all'interno di un testo. Questo è un po' attualmente oggi il limite del motore di ricerca. Si parla di integrazione di tecnologie, quindi vediamo la soluzione come una soluzione integrata e abbiamo superato il limite, da cui questa partnership fra noi e CEDAT 85 in Italia. Senza la caratteristica della descrizione, della trascrizione del testo, il motore di ricerca è in grado di riconoscere quelli che sono il titolo, gli elementi che ci sono di copertina del video, i metadati. Non è chiaramente in grado, senza una tecnologia di supporto di questo tipo, di entrare nella singola informazione che c'è, quindi parliamo di integrazione. Certo, però oggi diciamo il motore di ricerca necessita di una tecnologia che gli presenta un testo, perché il motore di ricerca è fondamentalmente capace di fare delle ricerche sul testo. O ci sono delle tecnologie che sono in grado anche di capire che cosa c'è in un video, un albero? Diciamo che se io parlo di immagini, aggiungo quali sono le caratteristiche di un video, di un'immagine. C'è la voce, se parlo di un video, ma se parlo di immagine o semplicemente di un filmato senza voce, esistono altre caratteristiche che sono cosa c'è in quell'immagine. Quindi c'è un aereo, c'è un volto, c'è un albero, ci sono chiaramente tecnologie in grado di riconoscere tutti questi elementi. A questo punto il motore di ricerca è in grado di riconoscere fra tutta una serie di immagini le immagini in cui ci sono volti, le immagini in cui ci sono aeroplani e così via. Inoltre è in grado di riconoscere la parte cromatica di un'immagine. Quindi supponiamo nel mondo della moda io lancio delle nuove una nuova sfilata, un anno van di moda certi colori, un anno van di moda altri colori, sono in grado di dire fammi vedere tutte le immagini a prevalenza giallo, a prevalenza verde, e identifico quindi quelle che sono le caratteristiche salienti. Quindi entro nel contesto del testo quando io mi integro con tecnologie di speech to text come quella di CEDAT, ma posso anche entrare in altro tipo di contesti della fonte che devo analizzare. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet a partire da lunedì pomeriggio, www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che in questo weekend compiamo 10 anni, dal 4 ottobre 1999 al 4 ottobre 2009, 10 anni che compie anche 2024. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio di sabato di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.